Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti a questa prima puntata del Pioniere, il mondo dentro una nuvoletta. Nel dopoguerra la sinistra si confronta con i grandi problemi della ricostruzione, non solo case, non solo strade, non solo ospedali, ma anche coscienza, ma anche cultura. Una storia troppe volte dimenticata, o peggio volutamente omessa, perché è una storia della sinistra. Furono degli intellettuali, Ada Gobetti, Gianni Rodari, che immaginarono il fumetto come un ponte di interlocuzione con i ragazzi che uscivano dalla guerra, che uscivano dopo 20 anni di fascismo. E qui nasce il Pioniere, nascono Cipollino, Atomino, Chiodino e altri eroi che hanno per anni riempito le pagine di questo giornale, il Pioniere, che andiamo un po' a conoscere in questi appuntamenti con voci, introduzioni, interviste e anche qualche audio dei video che sono stati prodotti nel tempo su questi eroi di cartone. Veniamo allora subito al primo appuntamento, che verrà condotto da William Piana ed Elisa Iacobucci, che entreranno nelle pagine di questo giornalino. Giornalino, come venivano definiti, a parte che a me il termine giornalino piace tantissimo. Comunque, detto ciò, se mi sentono gli hipster, ma no, ma è graphic novel. Vabbè, per me rimane il giornalino, perché era la mia arma per crearmi un mondo contro le autorità, contro i soprusi, per avere più possibilità di andare nel mio mondo, e ci andavo attraverso un giornalino. Per me tale rimane. Quindi, detto ciò, con tutto il rispetto per i grandissimi autori di graphic novel, che tra l'altro sono grandissimi artisti. Comunque, il pioniere è un periodo importante, dopoguerra, quindi famiglie che arrivano da un periodo difficilissimo trovano negli oratori, nelle parrocchie, vicino alla chiesa, quello che può essere un centro d'aggregazione per i bambini tra gli 8 e i 13 anni. Ovviamente le pubblicazioni hanno queste tematiche, sono quelle del Corrierino dei Piccoli. Ricordate, io ho sfiorato il Corrierino dei Piccoli fino ai 7-8 anni, qualche volta scappava insieme al giornale il Corrierino dei Piccoli per quanto riguarda un weekend, ed usciva la domenica tra qualche fumetto, personaggio eroico, personaggio strano, personaggi simpatici. Insomma, ricordiamo Geppo, ricordiamo Tiremolla, ricordiamo le strisce di Gian Coniglio nel Corrierino dei Piccoli e tutti quei personaggi che restano nella fantasia dei giovanissimi appena ho qualche lume di tutto ciò. Ma molto prima, per quanto riguarda quello che è stato all'interno del Partito Comunista, si riconosce e ci si ricorda che per i giovanissimi non vi è nulla, non c'è nessuna pubblicazione. Allora alcuni intellettuali, tra cui Gianni Rodari, decidono di creare una pubblicazione, il Pioniere. Il Pioniere avrà dei contenuti vicino alla scienza, avrà ovviamente motivo di far riconoscere i giovani tra di loro, motivi di aggregazione, ci saranno eroi che porteranno giustizia, libertà, ovviamente all'interno di un mondo che è appena uscito da mille difficoltà. Carlo Zaia, il segretario del CRAP, il Comitato Ricerche Pionieri d'Italia, ha raccolto tutti i numeri, si è ritrovato, pensate, con tutti i numeri, li ha scannerizzati e raccolti su un sito, e ovviamente è una realtà molto particolare, molto singolare, unica. Io direi di sentire l'intervista che Alfredo Pasquali ha fatto a Carlo Zaia per capire, con le sue parole, che magari ha vissuto più da protagonista, sia il periodo e sia la possibilità di vivere insieme a quei romantici eroi del passato, e che se fossero al presente sarebbe ancora meglio. Comunque, sentiamo le parole di Carlo Zaia. Il Pioniere era lo giornalino che veniva e fu stampato dal 1950 fino in varie forme fino al 1970. Era il giornalino dell'Associazione Pionieri d'Italia, che era un'associazione nata nel 49 e durò in varie fasi fino agli anni 50. Si rivolgeva essenzialmente ai ragazzi fra gli 8 e i 13 anni. Era una nuova forma di educazione di quel periodo, voglio dire, di sinistra, fondamentalmente. Il direttore del giornalino Il Pioniere fu Rodari, Gianni Rodari, che conosciamo tutti, grande scrittore per bambini, ma educatore. E fu un'esperienza differente, nuova, che peccato negli anni 70 si andò a chiudere. C'erano dei personaggi molto interessanti, alcuni pezzi, fumetti, venivano ripresi anche dal giornalino che veniva stampato in Francia. Pertanto era una cosa di educazione dei ragazzi, dove si parlava di tutto, si parlava della resistenza, cosa che in quel periodo nei giovani e nei giornali sempre per ragazzi non se ne parlava assolutamente. In quel periodo c'era Topolino, il Vittorioso e nient'altro. Questa era un'esperienza di sinistra dove si parlava di tante cose. Per un periodo è stato anche un inserto dell'Unità. È stato un inserto dell'Unità dal 63 al 66, perché alla fine del 62 furono delle difficoltà, e sempre le solite difficoltà che si ritrovano nella sinistra di quei tempi, economiche, che portarono alla stampa sull'Unità. Uscì per quattro anni, come inserto del Giovedì. I personaggi più o meno erano gli stessi, cambiò solamente Chiodino, che era uno dei personaggi principali del Pioniere solo, con Antonomino, ma fondamentalmente la stesura era questa. Con la chiusura del 66 sull'Unità, poi passò prima come inserto all'interno di Noi Donne, che era il giornale dell'Udi, e poi successivamente come pagina all'interno di Noi Donne, e si concluse questa esperienza nel 1970. L'Udi fu uno dei collaboratori principali con l'associazione Pionieri, questo bisogna darne atto. Ma la cosa interessante è anche quello che stiamo facendo adesso, noi abbiamo recuperato tutti i giornali, voglio dire, i 935 numeri usciti in 20 anni, li abbiamo recuperati tutti. Sì, perché appunto tu hai digitalizzato tutte le copie che si possono vedere sul sito www.ilpioniere.org, però c'è un appello anche, come dire, a cittadini e cittadine che avessero materiale dell'Associazione Pionieri d'Italia a portarlo per ricostruire questa storia. Bravo, bravo, perché è una storia meravigliosa. Cioè, dietro questa storia ci sono libri, c'è educazione a livello nazionale. Poi dopo ogni singola associazione, specialmente nell'Emilia Romagna, c'erano l'attività che veniva svolta. Noi dobbiamo prendere in considerazione che nel 1950, gli anni 50, i campeggi venivano organizzati, venivano portati aiuto dove ce n'era bisogno. Ecco, questa fu l'attività più importante, un'attività molto interessante, ma che purtroppo si è dimenticata, oppure ci sono dei vecchi che ancora come me che se la ricordano. Io sono stato un giovane pioniere perché sono nato dopo la nascita dell'associazione Pionieri, però ho vissuto una piccola parte, perché a 8 anni ancora esisteva, e pertanto è questo che poi mi ha portato a vedere, di cercare di recuperare tutta questa parte storica che non esiste più, non si trovava più, non in maniera nostalgica, perché non è quella, ma è per dire che in quel periodo c'era un qualche cosa che faceva, dove si parlava l'educazione. Tieni conto che il presidente dell'associazione Pionieri era Pagliarini, che poi divenne il presidente dell'Arci Ragazzi successivamente. People all around me, but they all in fear. Yes. They don't seem to want me, but they wanted me. Black on black strain, black on black strain. Creature, I'm inside my house. I'm afraid to come outside. C'è la possibilità di avere davanti un nuovo futuro, quindi la voglia di iniziare a mettere mattone dopo mattone, costruire il nuovo futuro, però giustamente da che parte andare? Quindi sì. C'è insomma varie fazioni che si contengono, questi giovani stratonati da una parte e dall'altra. Anche perché i giovani sono un patrimonio importantissimo, le famiglie, come dicevo, in difficoltà, si organizzavano i primi ritrovi all'interno degli oratori, i campeggi, i boy scout, no? Pensa che appunto la risposta a tutto ciò erano i pionieri. pionieri, giovani pionieri d'Italia, che avevano invece una formazione laica e progressista. Hanno avuto poi, come dicevo, un percorso particolare che magari andremo a conoscere anche negli altri approfondimenti che abbiamo. Ovviamente, insomma, non era facile competere con altri fumetti, o meglio giornaletti, come abbiamo appunto detto poc'anzi, perché c'era il Corriere dei Piccoli con personaggi storici, perché comunque un giornalino del 1908 che insomma aveva la sua storia, ha passato tutto il fascismo, il Corrierino dei Piccoli, e invece il Vittorioso, che era proprio cattolico e quindi ancora più sponsorizzato dalla chiesa. Sì, vicino agli oratori, che erano, come ho detto più volte, il luogo di ritrovo appunto, quindi per insomma i c'erano il signor Bonaventura da una parte e Cipollino dall'altra. Esattamente, questi personaggi: Smeraldina, Cipollino, Chiodino, Atomino. Tra l'altro Atomino, una specie di Pinocchio Frankenstein, sì. piccolo effetti. E il personaggio di Atomino molto affascinante, le persone spaventate dall'attacco atomico. No? Mentre invece spiegava a Tomino che, se non usata per distruggere, l'energia atomica può anche essere utilizzata diversamente. Può anche essere Sicuramente la scienza poteva essere uno di quegli elementi che poteva anche incuriosire, insomma, i ragazzi, avvicinarli anche dall'oscurantismo di quel periodo. E pensa che paradossalmente trovò grandi nemici all'interno dello stesso Partito Comunista, l'idea del pioniere. Perché? Perché c'era quest'idea un po' del giornalino, che finché era giornalino bisogna leggere i romanzi, Manzoni, cosa sono sti giornaletti? Beh, non si può leggere tutti e due. Un po' tutti e due, quindi anzi, perché uno può aiutare anche la passione alla lettura e giustamente nella crescita passare a romanzi un po' più impegnati. Noi abbiamo una seconda voce, che è Yuri Meda, che ci racconta un po' la storia di questi giornalini dall'inizio del Novecento. Sentiamo le sue parole. Stiamo parlando di numeri unici, di strenne pubblicate, quindi una volta l'anno alla fine dell'Ottocento, grosso modo immediatamente dopo la fondazione del Partito Socialista nel nostro paese, a Milano, a Torino, nelle grandi città, nei grandi poli industriali del nord Italia, dove quella massa operaia si stava formando e stava costituendosi anche, stava costruendo anche una propria identità politica, e iniziano appunto a pubblicare queste strenne qui. Ma che strenne sono? Sono delle strenne che hanno una caratteristica eminentemente pedagogica, cioè intendono educare l'infanzia. Ma quale infanzia? Beh, è un'infanzia che non è proprio quella che viene dichiarata, cioè chi sono questi figli del popolo? Sono i figli degli operai? Sono i figli dei contadini? Sono veramente loro? E beh, la risposta è ovviamente no, perché siamo nell'Ottocento e perché il tasso di analfabetismo nel nostro paese era altissimo, soprattutto nelle campagne, nelle periferie industriali. Non è che i figli del popolo, come li potremmo individuare, no? Come ve li ho esplicitati, andavano a leggere questi giornalini, perché non c'erano logicamente gli strumenti culturali per poter accedere a questi giornalini. Non solo, mancavano anche gli strumenti economici, cioè c'era logicamente un indice di povertà molto più alto, soprattutto nella determinate fasce della popolazione, che sono quelle dei siti subalterni di cui stiamo parlando sostanzialmente, in quel popolo generico di questi titoli, e quindi era molto difficile per questi bambini poter accedere a questi che erano dei beni di lusso. Ma allora chi sono quei figli del popolo? E quello che abbiamo scoperto è che erano molto spesso i figli stessi dei maestri della piccola borghesia, che si impegnava nella realizzazione di questi prodotti culturali, di queste strenne, di questi giornalini, e che costituiva quel diciamo così ceto intellettuale impegnato politicamente già all'interno del Partito Socialista, e che stava lavorando proprio per una emancipazione culturale e da lì sociale delle classi popolari. Ecco allora che dobbiamo sempre interrogarci: da un lato c'è un lettore ideale, ma dall'altro c'è un lettore reale. Da un lato c'è un'idea, dall'altro c'è la realtà. E questo lo ritroveremo più avanti, perché vedremo che anche quel fanciullo proletario del 1900, quella versione clandestina, dal 25 la versione clandestina fino al 29, anche lì lettore ideale e lettore reale non saranno proprio la stessa cosa. Ma andiamo avanti con il nostro viaggio, e stabiliamo allora un po' di tappe per arrivare fino al pioniere. Il nostro viaggio prosegue idealmente con saltando qualche altra tappa, inizi del Novecento, l'epoca giolittiana, cominciamo nel 1911. e parliamo di primavera. Beh, ma che cos'è primavera? Primavera perché lo voglio mettere sul piatto di questa giornata? Perché è un periodico molto importante. Perché è un periodico importante? Perché è un periodico illustrato. E voi mi direte, beh, ok, ma che c'entra? Perché è così importante sapere che è illustrato? Beh, perché i periodici illustrati costano. Costano. Perché se anche voi oggi fate un libro, fate qualsiasi cosa, fate un giornale, fate una qualsiasi cosa, ci sono dentro delle immagini a colori, viene a costare molto di più che se non ci sono solamente testi. E allora perché è importante dire questo? Beh, perché un periodico che si rivolge a un uditorio, a un pubblico come quello che abbiamo detto prima, no? Quello comunque delle classi popolari, e che diciamo così, si comincia a porre il problema dell'inserimento delle illustrazioni a colori, non tutte, ma quelle di copertina, per esempio, a colori, è un periodico che deve costare tanto, quindi chi lo compra? Lo comprano in pochi, infatti è per quello che fallisce dopo 3 anni. Però è un esperimento importantissimo, perché? Perché qualche anno prima erano nati 2 periodici, ma il Corriere nasce nel 1908 e prima nasce il Giornalino della Domenica di Vamba, Luigi Bertelli, Gian Burrasca. Quel Luigi Bertelli là, quel Giornalino della Domenica lì e il Corriere dei Piccoli di Silvio Spaventa Filippi costituiscono un'innovazione tremenda. Perché? Perché introducono l'illustrazione, perché introducono un nuovo modello, si chiamano fumetti all'italiana o fiabe a quadretti, come la definì Bertieri tanti anni fa, poi nessuno ha più riformulato quella definizione, che sono tutte italiane e che stravolgono completamente il mondo dell'infanzia, creando che cosa? Creando un pubblico. Il mondo della stampa per l'infanzia, creando che cosa? Creando un pubblico. E qual è questo pubblico? È quello dei bambini che si organizzano. Ci sono comitati di lettori del Corriere dei Piccoli che fanno dispetti e si accapigliano con quelli del Giornalino della Domenica. Oh, I got you! You thought you got away from me, didn't you? You thought I didn't see you now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you? You thought you'd be slick now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it to him. Come on. È un caso, anche se magari qualche attinenza c'è. Lui è Joe Tex. Ah, vedi? Parlavamo di strips e di non c'entra fumetto. Niente. Però era uno dei suoi primi fumetti. Sì, uno dei primi fumetti, fra l'altro, a uscire. Anzi, mi ricordo che mio padre mi disse, guarda che una volta non erano così i giornalini, ma erano semplicemente delle strip. Concludiamo questa prima puntata dedicata al pioniere, organizzata da CRAP e da Radio Stafugì, con una storia, quella del pioniere, evidentemente, che è tutta da conoscere e non solo per gli appassionati del fumetto. Quindi a risentirci la prossima volta. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?